24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Claudio Lotito, 57 anni, romano imprenditore, da 10 anni è presidente della Lazio, con proprietario della Salernitana. Ha vinto 2 Coppe Italia, una Supercoppa, è stato il grande elettore del neo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Tavecchi, un'elezione contestata e polemica. Appassionato e determinato, non ha paura degli ultra della Lazio che lo contestano. Adesso dicono che scenderà in politica e lui dice: se devo mettermi il saio lo farò. Cioè, deciso, presidente, politica. Solo se ci sono le condizioni, sicuramente. Me le piacerebbe, però. Ma con spirito di servizio vorrei. Lo spirito di servizio. Lo spirito di servizio significa mettere a frutto l'esperienza con Maduro nell'interesse del paese. E qualcuno gliel'ha chiesto o no? Ma diciamo che ci sono una serie di ambienti favorevoli a che ciò accada. Senta, ma lei pensa che si vota in primavera? Ma allo stato attuale c'è una situazione fluttuante. In questo momento va bene. Fare politica, presidente Lotito, comunque vuol dire prendere voti. Lei, malgrado i risultati, è abbastanza detestato dai tifosi della Lazio. Allora vuole prendere voti dei romanisti? Ma guardi, i voti prescindono adesso dall'aspetto della squadra e del tifo. Io non ho io penso che la gente oggi prescinde dall'appartenenza, vuole soltanto degli amministratori che facciano i loro interessi. Senta, ma a parte gli scherzi, questa frattura insanabile con gli ultra della Lazio, perché? Ma perché io sono entrato in un meccanismo rompendo degli schemi che erano consuetudinari e che avevano fatto sì che praticamente il tifoso... Cioè biglietti gratis, viaggi gratis... C'era una serie di situazioni che oggi non sono più sostenibili, non sono più compatibili. E lei ha rotto su quello? Avendo rotto su alcuni schemi, sicuramente ho trovato una frangia di persone che volevano conservare la loro posizione di interesse. Presidente Lotito, è stato mai minacciato? Diciamo che non solo sono stato minacciato, avviene quotidianamente. Ah, e ha paura? No. Perché? Perché sono convinto che nella vita ognuno deve fare il proprio dovere. Nella fattispecie io ho l'obbligo, in qualità di pater familias, di asseverare alcuni valori come quello della trasparenza e della correttezza. Senta, presidente Lotito, vabbè, politicamente abbiamo visto. Intanto ha fatto eleggere comunque, sempre politica, Tavecchio capo della Federazione Calcio. È soddisfatto? Sì. La partenza però di Tavecchio è stata in salita, gaffa, razzismo, cose varie. Tavecchio è già morto prima di cominciare? No, assolutamente no. Non è morto, perché sta dimostrando tutto il proprio valore. Senta, per fare eleggere un presidente ultra settantenne come Tavecchio in epoca di rottamazione, comunque un capolavoro. Ma non è un capolavoro, è aver condiviso con le varie componenti una linea programmatica che si stiamo attuando. Senta, presidente Lotito, ma se dicono che Tavecchio è teleguidato da lei si arrabbia? È totalmente infondato. Sì, sì, non è vero. Non è assolutamente bugie, vero. Cattiveria. Noi abbiamo soltanto un'unità di intenti che ci consente di poter sposare insieme un percorso che troverà creerà le condizioni per poter cambiare il calcio. Senta, presidente Lotito, comunque il presidente del CONI Malagò dice che Tavecchio non potrà realizzare il suo programma perché ha troppe cambiali da pagare. Quali sono le cambiali di Tavecchio? Ma guardi, non mi risulta che Tavecchio abbia cambiali, soprattutto quelle cambiali che venivano considerate nei miei confronti. Lo dimostra anche la mia posizione, quindi è totalmente infondato. Quindi Malagò si sbaglia? Malagò non mi sembra che, al di là delle cambiali e che della sua posizione, sicuramente lui riteneva che ci fossero delle condizioni per poter condizionare l'operato di Tavecchio, e oggi, alla luce dei fatti di quello che sta accadendo, non è accaduto. Ecco, però allora il CONI ha approvato una riforma che vede sconfitta la Federazione Italiana Gioco Calcio nella ripartizione dei fondi. È una sconfitta sua questa? No, guardi, questa è una cosa che verrà, secondo me, riesaminata nell'interesse del calcio e del sistema sportivo nazionale, anche perché la Federazione Gioco Calcio è la federazione che conta il maggior numero di tifosi e sicuramente di tesserati, oltre 1 milione. Quindi di lei dice tesserati. Che gli ridaranno i soldi che gli hanno tolto. Ma al di là se li ridaranno o meno, secondo me si creerà un punto di equilibrio che contempererà le esigenze di tutti. Cioè, gliene ridanno un po', diciamo. Si creerà, dicevo, un equilibrio. Sì o no. Ma questo non lo so, perché rientra nella volontà di chi poi li distribuisce. Ma è una vendetta di Malagò, è stata? Non so, adesso io penso che è una valutazione per, come dire, per cercare di riequilibrare i pesi all'interno del sistema. Tenga presente che comunque, alla luce di questo, forse la Federazione Gioco Calcio potrebbe pure ipotizzare un voto ponderato. Ecco, senta, ma Malagò, un amico o un nemico? No, a me, io lo conosco da tanti anni, spero che sia un amico. Ma una federazione italiana gioco calcio fuori dal CONI come la Fiat fuori dalla Confindustria? No, io ho detto soltanto una cosa, che nel momento in cui non ci sono le risorse per poter assolvere il compito istituzionale al quale l'istituzione è preposta, di fatto veniamo estromessi. Quindi è possibile che la federazione esca dal CONI? Ma io mi auguro che il buon senso poi alla fine prevalga. Se vi ridanno i soldi. Senta, anche Andrea Agnelli dice che Tavecchi è una sconfitta per il calcio. È la protesta di un figlio di papà o che cosa? Forse la sconfitta della sua persona nella elezione di Tavecchio. Cioè? Lui sicuramente non voleva Tavecchio. Ma cosa ne pensa di Andrea Agnelli? Andrea Agnelli è un buon dirigente, lo sta dimostrando con i risultati sportivi, e sicuramente vuole asseverare una sua posizione, che è la posizione della Juve, la posizione personale. Insomma, molto quindi, diplomatico, ma non è diplomatico su Andrea Agnelli. Ma no, il problema è che mi ricordo che aveva fatto una battuta sul suo nome. Si confrontano due filosofie diverse, fino ad oggi è prevalsa quella del sottoscritto. Senta, lo spread tra il calcio italiano... Se non altro, scusi, è prevalsa perché io rappresento interessi della maggioranza delle squadre, non perché rappresento l'interesse personale. Senta, lo spread tra il calcio italiano, quello tedesco, inglese, anche spagnolo, non è mai stato così alto. Quante responsabilità hanno i presidenti delle squadre? Ma è un po' la mentalità italiana che deve essere rivista, e mi pare che si è intrapreso un percorso di rivisitazione dell'impostazione. Cioè, avevamo un calcio da debito pubblico, non ce lo possiamo più permettere. Esatto, non solo, era un'impostazione dove praticamente c'era una mentalità dove il padrone, ossia il proprietario di una squadra di calcio, doveva necessariamente mettere i soldi. Oggi c'è l'autoconsistenza del sistema e quindi bisogna avere anche la capacità di gestire, oltre che di raggiungere obiettivi e risultati sportivi. Senta, Presidente Lotito, ma lei ha capito perché Moratti ha lasciato l'Inter in quel modo? Ma dopo un periodo molto lungo, peraltro ha ottenuto grandi successi, aver investito tanti soldi, penso che poi alla fine il periodo di stanca capita a tutti. Ma il conflitto tra Moratti e Toire è finanziario o che cosa? Ma no, Moratti ha rappresentato appunto il periodo passato del grande mecenate che con passione, per passione, c'è un vecchio modo di fare presidente. Oggi sicuramente il calcio col fair play finanziario necessita di un equilibrio economico-finanziario della società, e quindi non consente più di coltivare magari alcune passioni che possono trovare consenso e che invece viceversa nella fattispecie poi trovano dissenso. Ma per fare il rigore dovevamo andare fino in Indonesia? No, ma questa è una scelta che non sta a me valutare, perché Toira è entrato nel sistema calcio con le idee chiare e sta dimostrando di avere capacità gestionale. È un bravo presidente, secondo lei? È un presidente che rispecchia la nuova filosofia del fare calcio. Ma Berlusconi, il Milan lo venderà? Rappresenta il vecchio o il nuovo? Io penso che Berlusconi non lo venderà mai il Milan, perché ha una passione particolare per la sua squadra. Anche Moratti l'aveva. Sì, però nella fattispecie, mentre Berlusconi, il Milan, ha intrapreso un percorso... Cioè come il Milan c'ha Galliani? In più. Sì, a parte come amministratore, ma ha intrapreso un percorso virtuoso, quindi di abbattimento di quelli che sono i costi. E inizialmente l'Inter all'epoca non lo fece, adesso lo Cottoni lo sta facendo. Senta, ma lei crede alla convivenza tra il suo grande alleato Galliani e Barbara Berlusconi? Sì, assolutamente, sono due filosofie che sono complementari e tanto a caso hanno due aree diverse di azione. Ma qual è il collega presidente con cui lei va più d'accordo? Ma io non c'è uno con cui vado più d'accordo. Cioè, diciamo che io rappresento. No, io sono il punto di sintesi, questo mi fa piacere. Ma uno che è più simpatico. Ma diciamo quello che frequento spesso e col quale mi sento spesso appunto è Galliani e Preziosi. E ce n'è uno che non sopporta? A parte Andrea Agnelli, che mi sembra l'ha detto. No, non è vero, io adesso non sopporto, non è vero che non c'è un'antipatia personale nei confronti di Agnelli, anzi tutt'altro, io ho grande stima della sua persona e sono filosofie diverse che si contrappongono in alcuni contesti. Ma filosofie diverse che vuol dire? Significa che lui cerca di, come dire, far valere il proprio peso all'interno del sistema. Io ho portato per la prima volta la pari dignità, cioè i voti non si pesano ma si contano e siamo quindi in un sistema democratico, penso sia una cosa superamento importante. Di Cuccia. Senta, ma dopo Juventus-Roma, Presidente Lotito, ma lei crede davvero che la Juve goda dei favori degli arbitri? Ma io adesso non entro in queste ideologie che è sbagliato, sono quelle che fanno male al calcio. Io penso che non a caso Tavecchio e il sottoscritto hanno rappresentato la necessità di poter intervenire attraverso l'ausilio della tecnologia proprio per sfatare. Quindi lei è favorevole alla moviola in campo? L'abbiamo approvata in comitato Tavecchio hanno fatto una lettera alla quale è stata data una risposta dopo una settimana da Blatter, e speriamo che venga recepita quanto prima. Ma insomma, ma quanto prima, che vuol dire prossimo campionato? Non dipende da noi, ci auguriamo per essere il prossimo campionato, però non dipende da noi, perché dipende dal board della FIFA. Senta, ma per Calciopoli tutti quelli che hanno sbagliato hanno pagato? Ma io penso di sì, ma soprattutto ha pagato il sistema, e questo è importante, perché oggi c'è una filosofia completamente diversa. Senta, ma Moggi è stato una vittima, un capro espiatorio o un vero colpevole? Ma guardi, su Moggi se ne sono dette tante, secondo me è stato fatto più un film su tutta una serie di comportamenti che poi rientravano nella normalità di tutti, quindi una vittima. Ma quindi una persona che faceva capro espiatorio, che faceva parte del sistema, e che nell'ambito del sistema poi bisogna valutare i comportamenti, quelli corretti e quelli non corretti. Vabbè, si dice capro espiatorio allora? No, perché capro espiatorio significa ha subito soltanto. Invece io ho detto colpevole allora? Nell'ambito dei comportamenti esistono i comportamenti che possono essere, come dire, censurati e quelli non. Presidente Lotito, non ho capito se è vittima, capro espiatorio o colpevole. Non me lo vuol dire, va bene. No, non è che non glielo voglio dire. Quello che parlano sono i processi. Allo Stato risulta colpevole, però peraltro molto attenuato. Io penso che poi il terzo grado vedremo se poi risulterà colpevole. Senta, fino a un po' a prova contraria, in questo paese si è colpevole solo dopo una sentenza passata definitiva. Non c'è dubbio. Senta, lo scontro tra la Fininvest e Sky sui diritti del calcio fa bene o male al calcio? Fa molto bene, non a caso uno degli attriti dei confronti serrati tra me e Agnelli è stato proprio sulla necessità da parte nostra, del mio gruppo, di voler mantenere due operatori, perché hanno consentito di poter incrementare il valore dei diritti televisivi. Tant'è vero, abbiamo incrementato il valore. Ma Conte riuscirà a fare il miracolo? Penso che sia la persona giusta, perché ha un carattere molto determinato e quindi soprattutto ha molto entusiasmo. Senta Presidente Lotito, sono 10 anni che lei è Presidente della Lazio, la società è sana, però l'abbiamo detto, i tifosi, una frangia almeno inneggiano a Cragnotti ancora, perché? Ma quella frangia nostalgica che sicuramente si avvaleva di alcune posizioni di rendita che oggi non ci sono più. Siamo a quello che diceva prima, sì. Senta, ma ci sono calciatori che l'hanno accusata di mobbing, perché? Sono cose ormai superate, perché io ho voluto scardinare, cosa alla quale sono riuscito, il famoso contratto collettivo, che oggi fatalità non comporta più. Col nuovo sistema che ho introdotto io non c'è più una causa, quindi questo significava che veniva dettato solo esclusivamente dall'impianto normativo che favoriva questo tipo di contrasto. Quindi lei si contrasto. Sente corretto con i calciatori? Assolutamente sì, c'ho un grande rapporto, lo testimoniano il rapporto che ho con i giocatori della mia squadra o delle mie due squadre. Senta, ma c'è qualcosa che non rifarebbe come Presidente? Sicuramente quello di non valutare un aspetto inizialmente, quello del rapporto empatico con la tifoseria. Talvolta ha sottovalutato l'importanza dei tifosi. Si pone un interrogativo, le pongo io adesso una domanda: e secondo lei è giusto dire una brutta verità o una bella bugia? Perché tutto lì poi il problema. Allora io sono stato un realista, sono un pragmatico, e allora questo purtroppo, una brutta verità talvolta non viene recepita e anzi fa male, e invece diventa un fatto positivo nell'interesse della società e soprattutto del futuro del calcio. Però è strano, perché per come parla lei, come diplomatico, sarebbe stato più logico una bugia mascherata. Ma no, non è una bugia, perché poi bugie, come dire, quando eravamo bambini c'erano le gambe corte, dopo un mese, due mesi, tre mesi, 8 mesi, un anno si scoprono. Quindi i proclami, come lei vede, in alcuni contesti dove c'è un'enfatizzazione mediatica, poi non portano un risultato. Senta Presidente Lotito, ma il male del calcio sono anche i procuratori? Ma diciamo che c'è stato in passato, non a caso, in passato c'è stata una connivenza tra club, procuratori, giocatori, cioè insomma un purpurì che ha determinato una forma di consociativismo. Io non sono per il consociativismo, sono per la condivisione, non a caso ho ma proposto. Ma i procuratori dica. Le sto dicendo, porterò in Consiglio federale la deregulation dei procuratori, per cui non ci sarà più l'albo dei procuratori. C'è anche molta ambiguità economica nel passato. Infatti questo è nato proprio da una norma, delle norme che noi avevamo nel nostro sistema. Queste norme, nel momento in cui c'è la deregulation, a quel punto viene meno il diritto, come dire, prioritario che un calciatore ha nei confronti del proprio procuratore. Oggi i giocatori hanno un procuratore che è registrato e dal quale non si possono muovere. Sono schiavi, sono condizionati, indubbiamente. Allora, nel momento in cui tu c'hai la deregulation, ognuno si prende chi vuole, nel momento che vuole, che quando vuole, se lo vuole, vuole, e a quel punto viene meno il potere contrattuale del procuratore. Hanno coperto tanti affari ambigui. Non lo so, questo, perché le cose che non mi appartengono non mi riguardo, spero di no. Senta, ma è un bene per le squadre di calcio quotarsi in borsa? All'epoca era un bene. Adesso? Sicuramente oggi, nel momento in cui dovesse uno fare dei grandi investimenti per centinaia e centinaia di milioni di euro, potrebbe essere una risorsa, ma Cioè, lei non lo ritengo, rifarebbe? No, lo rifarebbe, ma non sono stato io che, con l'altro. No, le chiedo, lei oggi sicuramente il mercato è molto più complicato, perché il mercato in questo momento sta stagnante, quindi diventa complicato anche recuperare le somme all'interno del mercato. Senta, Presidente Lotito, in epoca di rischi di Ebola come quelli che stiamo vivendo, secondo lei la Coppa d'Africa si deve giocare oppure no? Ma se ci sono tutte le condizioni di prevenzione, sicuramente potrebbe essere giocata. È chiaro che non è una scelta non facile, perché bisogna vedere quali sono le limitazioni. Ma lei direbbe sì o no? Non conoscendo l'organizzazione non posso dire né sì né no. Senta, perché se l'organizzazione consentisse di avere le certezze di prevenzione, sicuramente sì. Senta, Presidente Lotito, torniamo al suo potere sul calcio italiano. Ma ne ha più lei o più il suo amico Gagliani? No, guardi, qui non è un problema, non si misura il potere contrattuale, è la credibilità, è l'autorevolezza che uno acquisisce attraverso il consenso dei propri colleghi. Allora mettiamolo in un altro modo: è vero che Gagliani è il dirigente numero uno del calcio europeo? Sicuramente dal punto di vista affettivo per me lo è. Affettivo. Senta, Presidente, comunque lei si comporta come se fosse il presidente della federazione, anche se non lo è, andando perfino negli spogliatoi della nazionale, le è stato contestato. Non le sembra un po' troppo? È totalmente falso, non sono mai entrato negli spogliatoi, sono sovrastrutture mediatiche costruite probabilmente da quelle persone che non condividevano la mia presenza. Ma i giocatori però si sono lamentati. Assolutamente non è capitato, nessuno palesemente ha detto queste cose, sono state, come dire, attribuite questi comportamenti alla mia persona, sono state superate, peraltro superate dei fatti. Senta, parliamo di violenza. Ci sono 403 gruppi organizzati di tifosi di chiara connotazione politica. Di questi 46 sono di estrema destra, 20 di estrema sinistra, 10 sono misti. Ma come si fa a estirparli dal calcio? Perché in passato si usava il calcio anche attraverso per il consenso, ricorderete. Oggi invece in Inghilterra sono riusciti a assolutamente abolirlo, perché problema. Hanno messo in atto un'azione congiunta da parte delle forze dell'ordine, dei club e attraverso delle norme per stroncare questo fenomeno. Io penso che in però Italia la violenza adesso aumenta, non diminuisce. In questo momento in Italia adesso anche l'ultimo decreto sicuramente limita molto, vedrete, ci saranno alcune situazioni che preverranno molti fenomeni. Però il capo della polizia ha detto che sono aumentati i feriti dell'87% nelle forze dell'ordine, sì. 10% gli arrestati, 20% i denunciati, sì, sempre peggio. Sì, ma questo fuori dallo stadio innanzitutto, è chiaro che questo il calcio è la cassa di risonanza di tutti i disagi sociali. E poi diciamo che allineano all'interno del sistema tutta una serie di persone che di professione fanno i delinquenti. Bisogna distinguere tra tifoso delinquente e delinquente tifoso. Lo so, però, purtroppo è questo. Non si riesce a distinguere. Senta, Presidente Lotito, quanto pesano? Il calcio, diciamo, muove interessi e passioni fortissime, però anche interessi, oltre a quelli sani, malati. Quelli malati, quanto pesano il bilancio complessivo del calcio? Man mano stanno scemando, vede, col sistema che abbiamo messo in atto, con un Tavecchio, stiamo mettendo delle norme che prevengono alcuni fenomeni distorsivi e mettono una gestione trasparente. Abbiamo approvato nell'ultimo Consiglio federale il fair play finanziario e stiamo approvando tutta una serie di norme, vedrete che obbligheranno i club a avere un comportamento corretto sia dal punto di vista deontologico che dal punto di vista, diciamo così, economico. Però quindi ciclicamente riesplodono pezzi di scandali, scommesse. Ma sono tutte cose che fanno credere che sia molto diffuso. Ecco, ha detto bene lei, che fanno credere. Il problema è questo. Secondo me sono fatti che appartengono al passato e non alla mentalità attuale. Oggi non ci sono più le condizioni a che si verificano gli episodi. Abbiamo approvato, questo glielo dico, nell'ultimo consiglio l'obbligo della 231 ai fini finalizzata proprio per evitare il ripetersi questi fenomeni. Quindi ogni società e ogni club si deve dotare di un sistema per prevenire questi fenomeni. Sì, però senta, l'esplosione delle scommesse online e clandestine non è un sistema fuori controllo che incide sul calcio? Cioè, sicuramente ha una valenza a livello internazionale, perché le scommesse invadono completamente il campo non solo dell'area del calcio ma di tutti gli sport, ma io penso che ci saranno le condizioni perché far sì che ciò non determini alterazione del mercato. Senta, ma quanto incide la mancanza della legge sugli stadi sulla crisi del calcio? Ma guardi, c'è una legge che è stata alterata nello spirito, nell'impianto era giusto. Ci sarà o no sta legge? Io mi auguro che il governo rettifichi quell'impianto di quella legge, che era una legge non più per gli stadi ma era una legge per impiantistica di base, e che lo corregga con le valorizzazioni urbanistiche consone, perché in questa maniera si potranno fare dei grandi investimenti. Senta, ma non è possibile seguire il modello Juve? Non è che la Juve ha fatto la cosa giusta? Ma il modello Juve innanzitutto ha impiegato 11 anni per avere quello stadio, e poi il modello Juve nella mia testa non è il modello perfetto, perché non mi sembra che abbia incrementato in modo esponenziale, ossia in modo geometrico, i ricavi. Però quindi è tutto cambiato a Torino, più tranquilli, sì, famiglie ma abbastanza tranquille. Non tanto, perché hanno i loro problemi anche loro con la tifoseria, ma non è quello il problema. Il problema è, io penso che uno stadio deve essere aperto H24 365 giorni all'anno, deve diventare un luogo dove le famiglie chiaramente, appunto, lo vivono quotidianamente e la usano come casa propria, e quindi viene tutelata. E da questo punto di vista poi incrementando i ricavi dal punto di vista esponenziale, perché non sono solo i ricavi del biglietto, vuol dire fare negozi intorno e tutto. Tutta l'attività commerciale che produce un ricavo fondamentale perlomeno 70-80 milioni l'anno. Senta, Presidente Lotito, ma lei quanti progetti ha già presentato al Comune di Roma per lo stadio della Lazio? Guardi, io soltanto all'epoca, 10 anni fa, io sono stato un antisignano in questo, abbozzai un'ipotesi di un progetto che poi mi fu, come dire, tarpato. No, non è stato formalmente, non è stato mai presentato. Tarpato sul presupposto di alcuni. Sono curioso di vedere che cosa succede a quello della Roma. Senta, perché cosa pensa che succede? No, perché sicuramente si trova in una condizione che ovviamente completamente forse peggiore da quello in cui avevano lamentato Senta, i suoi nemici però dicono che lei nel progetto della Lazio. I suoi nemici dicono che lei vuole una legge senza regole per mettere a frutto i terreni che ha sulla Tiberina. È totalmente infondato, lo vuole fare lì. Io innanzitutto non ho scelto in modo definitivo il sito, la location, come si suol dire oggi nel gergo, ma al di tutto questo io penso che uno stadio debba avere un'autoconsistenza di carattere economico e finanziario, quindi un equilibrio economico e finanziario finalizzato sia alla realizzazione che al mantenimento. Se non ricordo, insomma, questa situazione quei terreni sono quelli dove lo vuol fare o no? No, quei terreni erano un'ipotesi di lavoro, dove dovrò capire. Ma è un'ipotesi ancora vera o no? Sicuramente, sono 550 ettari, penso la più grande proprietà del Comune di Roma. Ma non è vero che sono terreni a rischio esondazione? A rischio esondazione quei terreni, figuriamoci quelli che stanno sulla sponda del Tevere, dove verrà realizzato? Lo stadio della Roma. Va bene, quindi Roma contro Lazio. Ma non siamo Roma contro Lazio. Infatti sono curioso di vedere che cosa succede. Perché poi se c'è un pari trattamento. Certo. Senta, Presidente Lotito, siamo in chiusura. L'Italia comunque è in crisi di giovani campioni. Conte, l'altro giorno in un'intervista esclusiva a Sky, ha detto che su 23 suoi convocati, nell'ultima convocazione, 10 addirittura non giocano nelle loro squadre, ma non è lì un problema di fondo? Noi siamo consapevoli, non a caso abbiamo approvato, il 14 approveremo definitivamente una norma che consentirà sia l'entrata degli extracomunitari attraverso due soluzioni solo, una che è libera e una che deve avere il curriculum, e approveremo le rose contingentate, 25 giocatori di cui 4 devono essere cresciuti nel club e 4 nella Federazione del Gioco Calcio Italiano, proprio per andare a valorizzare il settore giovanile. Peraltro non mi faccio queste domande perché il sottoscritto ha il ranking più alto del settore giovanile di tutte le squadre italiane, quindi significa e sono il primo che ha fatto noi adesso metteremo nella norma che c'è l'obbligo da parte delle squadre di voler realizzare l'Academy, cosa che io sono stato uno dei primi in Italia, anzi il primo per esattezza, quindi ritengo ci siano tutte le condizioni per valorizzare i giovani italiani. Mi faccia il nome del campione che valorizza, che offre a Conte, campione italiano che sicuramente... Ma in questo momento è Candreva per la nazionale italiana. Mix 24. Allora Mario, titolo? No, una premessa. Intanto stasera giocano Lazio contro il Cagliari, va bene, ok. Quindi mi raccomando sempre. Poi... la roccia biancoceleste, perché insomma lo titolo è uno duro, bravo, il titolo non l'hai fatto. La roccia biancoceleste. La roccia biancoceleste, tu? E io, vista il tuo amore per il calcio, il mio amore. È fondata l'infondata idea di candidarsi. Va bene, no. Canzone. L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il Lunedì con Rino Gaetano sfiorivano le viole, perché fiorivi e sfiorivano le viole mentre si aspetta, i passi delle onde diventano come i piedi nudi ed è tutto un aspettare, tutto un fiorire mentre si sfiorisce, poi per aspettare si resta fermi per aspettare, si indietreggia per aspettare, tornano gli amori, quelli del passato, quelli del presente, si ricordano appena, tutto fiorisce mentre si sfiorisce. Un grande Rino Gaetano. Fantastico Rino Gaetano, bravissimo veramente. E andiamo alla tristezza della realtà con le bolle di Mario Secchi. Signore e signori, se mi definisco un cercatore di petrolio sarete d'accordo con me. Che avete trovato? Ho trovato varie interessanti possibilità. Ho molti pozzi che producono migliaia di barili al giorno. Posso garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola. Sono pronto a darvi $3,700. No. C'è il petrolio qui, varrà pure qualcosa. Questo era Il Petroliere, fantastico film, lo consiglio a chi non l'ha mai visto e anche a chi lo vuol rivedere, ovviamente. E mercato molto particolare, molto interessante, molto competitivo, affascinante per chi come noi cerca di raccontarlo, appunto è quello del petrolio. Leggevo una bellissima analisi del Wall Street Journal che diceva che Exxon, Chevron e Shell hanno profitti sempre più bassi. Cambia il mondo, ultimi 10 anni in particolare, sempre, no? Cioè, un margine sempre più ridotto. Pensano di farsi un po' più piccole queste compagnie per ridurre, quindi per evitare la tagliola dei costi di produzione sostanzialmente. Andrà così? Non lo so, la tendenza al gigantismo, come vedremo più tardi, è molto accentuata, quindi non ci scommetterei. Segnalo in questo settore, devo dire che Eni ha battuto tutte le stime degli analisti nelle comunicazioni dell'ultimo trimestre, e ogni tanto secondo me bisogna ricordarsi appunto di quello che fanno le grandi aziende che fanno italiane, quando fanno bene, mi pare quando, che sia il caso quando, questo fanno momento, bene, no? esatto. L'Eni è in corso una grande ristrutturazione, anche perché sono mercati molto competitivi, è un mercato difficilissimo. Abbate, dica, ci ha pensato? Sì. Ha trovato la risposta? Sì. Che cos'è la pubblicità? È l'anima del commercio. L'anima del commercio. L'anima del commercio? Sì. E che vuol dire? Non lo so. E perché ha detto che è l'anima del commercio? Boh. Vabbè, ho ripescato stamattina. Maresco. sì. Cirico TV, la so se qualcuno lo ricorderà. Ecco, questo è l'esempio invece, al contrario, un altro mercato estremamente complicato che noi conosciamo, diciamo, un po' meglio per ragioni professionali, che è quello della pubblicità. Qui c'è la tendenza al gigantismo, cioè alla concentrazione. Quindi abbiamo visto da una parte l'oro nero, il petrolio, che tende a spezzettare, restringersi invece qui la pubblicità. In particolare c'è una notizia sulla quale vale la pena riflettere, perché Publicis, che è uno dei giganti del settore, un gruppo francese, ha speso 3.7 miliardi di dollari per acquistare Sapient, che è un'azienda americana nata a Boston nel 90, è una delle più forti nel settore della consulenza e organizzazione su vari settori, dal governo all'high tech, diciamo. Per i francesi ovviamente si tratta dell'apertura al mercato americano, dove ovviamente c'è molta competizione ma anche molti soldi. L'acquisto segnala ancora una volta, in questo caso, la tendenza ad aggregazioni che operano sul piano globale, su questo piano della pubblicità, sì. Insomma, come dicevi, tralascio le conseguenze, o meglio le dico in realtà, e cioè concentrazione di soldi, di potere, di influenza. Ricordo a tutti che la pubblicità non è solo l'anima del commercio, ma è anche la libertà per quelli che fanno questo mestiere. Quindi più si concentra la pubblicità è più è a rischio la libertà di informazione, sì. E noi ne approfittiamo invece per andare da Sara Tardelli e vedere cosa ci racconta oggi la Quota Rosa. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face. Ecco, oggi si parla di morbidezza in qualche modo, perché il professor Guarino mi ha fatto venire in mente questa canzone sabato sera 8:30, quando ha paragonato il vincolo del 3%, odiosissimo, del Fiscal Compact all'obbligo imposto tempo fa dalla moda alle donne di essere anoressiche per essere considerate belle. Però poi qualcuno nel mondo della moda si è ribellato, qualcuno ma non si sa chi esattamente, un po' come il professor Guarino. E questo qualcuno, di fronte alle foto di quelle ragazze stuzzicadenti, magrette, così tristi, ha detto: basta, la magrezza esagerata deve diventare un reato, chiamato istigazione all'anoressia, tanto simile al fiscal compact. E dice sempre Guarino che più o meno in Europa c'è capitata la stessa cosa, cioè qualcuno, non si sa assolutamente chi, ha tradito la dieta mediterranea di Maastricht con l'austerità anoressica sempre di questo odiosissimo fiscal compact. Adesso, non so se ve ne siete accorti, ma è tornato di moda a vedere nelle pubblicità modelle tutte sorridenti che ammiccano. Prima invece era vietato mostrare anche solo un millimetro di dentino. Allora mi chiedo, siccome è tornato di moda il sorriso, se recuperiamo questo benedetto trattato di Maastricht che qualcuno nel cassetto ce l'avrà, non riusciremo ad essere sorridenti di ogni taglia, allegri, felici, con una bella dieta mediterranea cucinata dal professor Guarino? Forte, carino. No, diciamo che c'è un teorema economico nuovo, cioè che la via dell'austerità finisce su quella delle curve. Salamino! Ci saranno curve, ci sarà l'austerità obbligata, insomma. Allora, la prenderei con la poesia. Settembre è tempo di migrare, diceva il Vate Gabriele D'Annunzio. Poi c'è stato ottobre, una volta si andava a scuola. Occupiamoci di novembre. Allora, novembre parte con la forza e la potenza di tutti i santi. Quindi sì, la commemorazione dei defunti. Però poi arriva la notizia che questo è il mese delle tasse. Allora, da qui a giorno 30 ci sono 221 adempimenti ed è solo un antipasto rispetto a dicembre, perché entro la fine dell'anno saranno in 400. Il primo dicembre sarà il giorno limite per pagare IRPEF e IRES. Insomma, la situazione è complicata assai. E il Manifesto qualche giorno fa offriva con un titolo anche un'inchiesta da dove si evince che i nuovi poveri sono i titolari di partita IVA, i vecchi poveri quindi sono i veri ricchi, perché seguendo il ragionamento di Collodi, il famoso interrogatorio del giudice, dove si diceva che conoscesse una famiglia di Pinocchi, l'ultimo dei quali tra questi era il più ricco di tutti perché non vedeva mai il becco di un quattrino, l'alternativa ci sarebbe. Ci Quale? Sarebbe l'alternativa. L'alternativa sarebbe quella di candidarsi nella lista Tsitsipras. Perché? Insomma, perché i due campioni, Barbara Spinelli e Curzio Maltese, si sucano 20.000 euro al mese per fare i proletari. Però, per fare appunto un bel ragionamento intorno a quella che dovrebbe essere la riconquista delle masse operaie. Con la lista Tsitsipras, però restano molto cashmere, quindi molto cashmere. Molto cashmere. Molto cashmere. Morbido. Restano queste maledette tasse, e quindi a tutti noi che siamo titolari di partita IVA, diciamolo, a tutti ci dedichiamo questo cia cia cia. Dracula, Dracula, cia cia cia. Vampiro, vampiro, mantello. È Rachel che canta il cia cia cia di Dracula. Esatto. E sai, siccome noi titolari di partita IVA offriamo il collo a questi pugno devastasi. Beh, adesso è novembre. Mix 24. Il canzoniere. Oh, notte di luna piena, fosse l'ultima volta che guardi il mio tormento. Quante volte ho atteso chiuso qui dentro, svegliando sui libri e le carte, finché mi apparivi tu, malinconica compagna, potessi andare per i monti, nel silenzio amico della tua luce, vagare nel tuo crepuscolo lungo i prati, maledetta questa buia tana di sassi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, per chi può e vuole rispondere su questo quesito. Intanto, Mario, se abbiamo ancora una grandi notizie dall'Artico. Sì. Tranquilli, non è la posta del cuore, però ci piaceva, l'abbiamo messa uguale. Allora, grandi notizie dagli abissi, perché attenzione, vi ricordate il sottomarino russo che gli svedesi cercavano nei loro mari vicino a Stoccolma? Ve lo ricordate, Giovanni, te lo ricordavi? Il sottomarino, sì. Lo ricordavo, abbiamo avuto molte chiamate sul sottomarino. Ebbene, una bella telenovela. Ebbene, allacciate le cinture. È stato trovato. Mani sul volante, è stato avvistato nell'Artico. È comparso tra i ghiacci, è stato fotografato dagli esploratori. Commento da Mosca, lo vuoi sentire? Certo. Hanno bevuto troppa vodka. Salamino! Il giovane favoloso. Martone si sente come uno dei fratelli Grimm. Racconta la sua fiaba nera, ottocentesca, che non prevede redenzione né rospi che si trasformano in Pegaso. Ricordati che devi morire! Padre, signor Conte, vi voglio bene, ma fatemi trombare. Vorrebbe urlare oltre quell'ermo colle Giacomino. Ma Silvia se n'è andata con l'ebola e la madre contessa lo vuole più vergine di suor Cristina. Per evitare danni a me e agli altri, io ero vergine. Così almeno non dovevo preoccuparmi dell'eiaculazione precoce. Elio Germano si contorce e si rannicchia, si piega a mo' di cammello e fa testate con la luna, interpretazione da contorsionista, sontuosa. Il biopic è nelle corde del regista napoletano, che perciò ci racconta il passero solitario pari pari come ce lo descrisse il Luperini, da pagina 32 a pagina 38. Silvia, rimembri il tempo di in sulla vetta della torre Antifano? Porca miseria, mi sto sbagliando con... Col passero! Sta di mezza Silvia e mezzo passo. Tralasciando in tutto questo la saturnina psichedelia del magnifico gobbo di Recanati. Postscriptum. Leopardi traduce impudicamente Onfalos con ombelico. Sapeva bene che Omero era un poeta e non un signore. Pietraggio, è la vodka del lunedì. No, ho voluto cedere il salamino a questa straordinaria recensione del film Il giovane favoloso, che riscuote tanto successo presso gli acculturati, e non una bellissima recensione di Alessandro Chetta, che ho voluto fare ascoltare. Anche lui ha bevuto troppa vodka. Simonelli, professor Simonelli, buongiorno, come va? Anche lei come sta? Sta bene? Sto bene. Soprattutto dopo una domenica, sentite un po'. Domenica bestiale. Cos'è capitato alla televisione per essere così bestiale, professor Simonelli? È capitato quasi un miracolo. Ah. Domenica pomeriggio, tra le 17 e le 19, teatro televisivo in diretta, ovviamente per l'anniversario della morte di Edoardo, dal teatro San Ferdinando, cioè la casa di Edoardo De Filippo. Allora, non voglio neanche parlare delle colpi geniali di regia, non voglio parlare di Sorrentino, di Servillo, voglio dire che in diretta la domenica pomeriggio, invece di Paola Perego e delle sue considerazioni, come le definiamo, un po' sciocchine, va in onda Edoardo. È una cosa straordinaria, in diretta, il teatro in diretta. Beh, come una volta. Che non si faceva da quanto tempo? Da una quarantina d'anni. Sì. A parte la prima della Scala, che è una messa cantata che tutti dobbiamo seguire, e questo allora bisogna dire lode a Rai 1, al suo direttore, bisogna dire che già prima il direttore precedente aveva fatto Edoardo con Massimo Ranieri. Vabbè, ricordate? Molto bello. Vabbè, la domenica bestiale, il teatro in diretta. Altri luoghi in cui si è manifestato il canone? Ma guardi, c'è una cosa, perché qui si dice, e magari qualcuno me lo dirà, che in fondo il teatro, come la fiction italiana, è roba per anziani, sì. È un paese per vecchi questo. Adesso io leggo una cosa, che giovedì sera che Dio ci aiuti, ad un certo punto sull'hashtag azzurra ha avuto un numero di tweet superiore a quello addirittura di X Factor. Allora qui delle due l'una: o non è vero che qui sono solo gli anziani che guardano il teatro, che guardano la fiction italiana, oppure che questi anziani smanettano da matti sui social network. Beh, molto interessante questo dato, professore. Mi dovrà spiegare. Molto curioso, molto curioso. Poi anche Report naturalmente aveva il servizio pubblico nel suo DNA e l'ha espresso nella puntata di domenica. Visto che lei mi stuzzica sempre su Report, io le posso dire una cosa. La cosa più bella della Gabanelli, a parte il servizio pubblico, le inchieste, molto, è stata qualche settimana fa l'intervista a Gino Paoli. Non so se forse Pietrangelo. No, vedi, io gliel'avevo appena fatta, quindi la sua non l'ho sentita, mi dispiace. lei non ascolta la radio, professore, non è colpa mia. No, quella l'avevo ascoltata, ma senza nulla da togliere alla sua. No, e ma poi, scherzo. C'è una cosa. Lei ha fatto un'intervista seria. Lì invece si parlava di sesso, Sì. La Gabanelli ha parlato di sesso. La Salunga. Meglio la Gabanelli con Gino Paoli che la Gabanelli che fa le inchieste. Meglio un'intervistatrice frivola che l'inchiesta. Ma c'è una stroncatura. No, beh, è una linea, un complimento è una linea. Grazie professore. Grazie a voi, professore. Canzoniere, qualcuno ha vinto il canzoniere? Nessuno ha telefonato? Nessuno. Ancora troppo difficile, caro Pietrangelo. No, è un classico. Giovanni Allevi racconta Vincenzo Bellini, grande interprete del romanticismo musicale italiano nella storia dopo il giornale radio. Noi veniamo da un secolo, il Novecento, che ha creato il mito della complessità e quindi abbiamo paura della semplicità. Invece la semplicità è complessità risolta. Cioè è il risultato di un lavoro meticoloso e molto faticoso di passaggio attraverso la complessità per raggiungere finalmente questa purezza nella tessitura, così come nella melodia di Bellini, che è straordinaria perché arriva subito, viene immediatamente percepita dall'ascoltatore, ma al tempo stesso è inimitabile, cioè io non potrei scrivere un'altra Castadino. Ecco, era Giovanni Allevi che parlava di Vincenzo Bellini con Marina Milone. Dopo il giornale radio racconteremo la sua storia e la genialità della sua musica.